Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat, Enzar Gante, il traghettatore, puntata dedicata ai volontari della conoscenza. È una bellissima storia, mi piace molto perché tocca un po' uno dei tasti cruciali, uno dei punti critici del sistema analogico che trasborda, per usare la metafora cara a Ferry Boat, nel mondo digitale. È proprio la differenza che c'è fra chi è nato nel mondo analogico, chi ha usato manovelle e bottoni, chi invece si trova ad avere di fronte un touchscreen. I giovani quindi incontro vicino a chi giovane più non è e chi ha qualche difficoltà forse ad interpretare. Ed ecco che Fondazione Mondo Digitale e Telecom, in una esperienza diffusa nella capitale a Roma in 61 scuole, hanno lanciato Telemouse. Il Digital Divide, questo sconosciuto. Nelle scuole romane riparte il Telemouse, il piano di alfabetizzazione di Fondazione Mondo Digitale. Come convertire i nonni al social network e alla spesa digitale? Ecco il metodo di apprendimento intergenerazionale. Tocca ai giovani mettersi in cattedra e insegni il migliore. Due borse di studio per i volontari della conoscenza più brillanti. Massimiliano Tarantino, responsabile dei progetti di comunicazione di Telecom Italia. Lei è Massimiliano Tarantino, intanto buongiorno. Buongiorno. Lei è il coordinatore di questo progetto. Sì, lavoriamo da anni con la Fondazione Mondo Digitale per allestire nei centri anziani della capitale degli Internet Corner e per lanciare questo ponte tra generazioni e tra diversi linguaggi e tra diverse esperienze, e quindi tra la generazione dei nativi digitali, quindi la generazione dei giovani di oggi e quelli che magari possono avere delle difficoltà ad utilizzare le nuove tecnologie e che attraverso invece i più giovani costruiscono un ponte nei nuovi linguaggi e nelle nuove forme di comunicazione multimediali. Ecco, adesso qualche dato giusto per definire. Uno l'abbiamo dato all'inizio della trasmissione: 61 scuole della capitale interessate. Parliamo di over 60, quindi di persone che hanno superato i 60 anni, e parliamo soprattutto di 900 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado che si sono impegnati in questi anni, che si stanno impegnando ancora in questo passaggio di conoscenza. Come avviene il contatto? Lei un po' accennato già a questi totem, no, dottor Tarantino? Come avviene il contatto fra chi offre conoscenza e chi la chiede? Ma il percorso è molto interessante perché sostanzialmente la popolazione matura va a scuola, quindi ritorna a scuola nel pomeriggio, e questo migliaio di giovani della capitale si mette in contatto con almeno 50.000 anziani della capitale sia nel pomeriggio a scuola, che poi è propedeutico all'attività del pomeriggio all'attività nei centri anziani. Quindi sostanzialmente a scuola avviene una didattica frontale, quindi il giovane che dà la sua disponibilità all'insegnante di partecipare a queste azioni di volontariato nel pomeriggio, trascorre dei pomeriggi con 20, classi di 20, 15, 20 anziani, li aiuta ad arrivare ad un grado di alfabetizzazione digitale veramente interessante, perché arrivano ad utilizzare internet, arrivano a conoscere che cos'è un social network, arrivano ovviamente a trasmettersi delle email tra loro e ad utilizzare tutti i servizi della pubblica amministrazione che passano oramai attraverso il digitale, e poi hanno la possibilità di utilizzare questi internet corner che Telecom Italia e la Fondazione hanno installato nei centri anziani della capitale, che servono quasi da palestra e quindi servono da approfondimento di quello che è stato appreso la mattina. Abbiamo con noi una tutor, una, come dire, docente, Marina Fidanza, ha solo 18 anni, quindi magari fa impressione sentirsi chiamare così, vero Marina? Abbastanza. Ecco, tu sei fra quegli studenti che si sono impegnati in questo processo di divulgazione verso gli anziani. Come funziona il tuo corso? Tu lo fai, cioè vai tu in classe, incontri queste persone, spieghi loro come funziona un computer, è così? Sì, esatto, è così. Noi siamo nell'aula computer con loro sentiamo di cosa vogliono imparare e poi ci basiamo anche sulle loro conoscenze. Qual è la cosa base, quella che secondo te è più importante che queste persone conoscano? Navigare in internet, la mail, la chat, l'audiovisivo, Facebook o tutte insieme? Secondo me saper navigare in internet, quindi anche saper come girare in internet, prendere le informazioni che vogliono. Ma tu hai notato effettivamente c'è una differenza di insomma, queste persone fanno fatica a capire questi mondi digitali, oppure non è vero che c'è questa insensibilità, diciamo? Guarda, per il gruppo di anziani dove siamo stati noi, cioè, non hanno avuto problemi. Poi io parlo per la mia di signora Lucia, lei già sapeva usarlo il computer. Quindi ci siamo trovati già a buon punto. E che cosa gli hai spiegato esattamente? Tu gli hai spiegato materialmente quali tasti digitare, come usare un mouse, quella è un'altra storia, anche se anche sostenibile pure quella. Tutto questo rispetto alla possibilità che hanno, che abbiamo di collegarci ad altre persone nel mondo, che è poi il grande passaggio. Questa è la cosa veramente nuova, importante da capire. Sì, poi Lucia era già a buon punto, quindi non c'è stata una grande differenza. Adesso sentiamo Lucia intanto, che grazie intanto Marina Fidanza, buon lavoro e studia, mi raccomando. Ciao. Sì, ciao. Arrivederci. Massimiliano Tarantino, la semplicità e anche la simpatia con cui Marina Fidanza ha gestito questo approccio dimostra che stiamo parlando di un incontro vero fra generazioni, non di una macchina burocratica, dico, che ha insomma tanti paletti e poca spontaneità. Ma sai, quando parliamo di incontro generazionale molte volte rischiamo forse anche di usare degli slogan, e qui questo progetto ci dà la reale sensibilità di come effettivamente l'indifferenza dei giovani a parlare con le persone più mature sia invece uno slogan assolutamente negativo e contraddetto dai fatti. Qui veramente c'è un'opera di avvicinamento, di comprensione e di accompagnamento a diventare, a non essere esclusi dalla società, a non essere esclusi da questi nuovi mezzi di comunicazione. Ed è molto bello, un incontro umano molto bello. Quante sono le persone che sono state, come dire, educate fra virgolette in questi anni con Telemouse? Ma tra attività nei centri anziani e attività frontale nelle scuole arriviamo intorno ai 40.000 soggetti. 40.000 soggetti, quindi c'è una città. Eh sì, sono tanti, poi sono i giovani, sono tantissimi i giovani che si propongono e che vogliono anche poi seguire nel pomeriggio l'attività negli internet corner nei centri anziani, e ci sono tantissimi responsabili di questi centri anziani che vogliono espandere ancora di più i corsi, introiettandoli nel percorso quotidiano delle loro attività, come se veramente fosse una finestra sul mondo. Personalmente, che non sono più giovane ma non sono ancora un anziano, non per molto insomma, ritengo che questo divario digitale, famoso digital divide, sia particolarmente imbarazzante per il sistema, perché chi gestisce il potere è quello che ha bisogno di essere educato da chi invece ancora non è neanche nell'anticamera del potere, cioè i giovani. È molto bizzarra questa cosa, però è assolutamente vera. Se pensi che noi facciamo anche dei progetti per i giovani, ma molto spesso accade che i giovani sappiano più di noi, e quindi più degli esperti, più dei tecnici, e quindi quale miglior tramite per avvicinare, per abbattere il digital divide di quelli che sono proprio digitali e che vivono e che non possono immancabilmente privarsi del digitale, dei cellulari, di internet, dei PC, che sono le nuove generazioni, sono i ragazzi come Marina. Lucia Caruso è qui con noi. Salve Lucia Caruso. Salve. Lucia Caruso è l'allieva, no, di Marina Fidanza in questo, come dire, processo didattico, al contrario, almeno dal punto di vista anagrafico. Lei ha, diciamo che ha 61 anni, anche per intenderci, quindi è una giovane nonna, fra l'altro, ed è entrata in questo universo dell'apprendimento intergenerazionale, che poi non è solo una questione tecnica, anzi non è una questione tecnica, ma proprio di linguaggio, di relazione con il mondo dei giovani che usano quel percorso, hanno quei linguaggi. Sì, per me è stata un'esperienza nuova, bella, perché mi ha fatto capire veramente che il stare a contatto con i giovani per noi della terza generazione è importante, molto importante. Lei già usava il computer prima di incontrare Marina, no? Io prima di incontrare Marina sapevo la BC, come accenderlo, come cliccare su internet per fare qualche ricerca, qualche cosa così. Ecco, ecco, ma lei, Marina, a parte le istruzioni tecniche su quale tasto, diciamo, poco fa digitare, ha notato, cioè ha sentito anche come dire, l'intensità di un modo di vedere le cose diverso dal nostro, dal suo e dal mio, perché siamo in un'età prossima? Sì, sì, loro hanno una comunicazione diversa rispetto a noi. Però io mi sono trovata bene, diciamo, con Marina, perché sì, è possibile la comunicazione. Poi lei mi ha insegnato diverse cose sul computer, come si usano dei programmi, ad esempio PowerPoint, mi ha detto come vedere i film, diciamo, su internet gratis, mi ha fatto iscrivere sul sito Facebook, per cui Facebook, con una comunicazione lei, ecco, che io non conoscevo, per cui... Lei chiama da Roma, ovviamente, lavora, Lucia? Io no, sono fuori dal lavoro da 5 anni, per cui per me questa è stata una curiosità. Quando mi hanno proposto di partecipare a questa cosa, subito mi sono incuriosita e sono andata e mi sono trovata bene. Ho trovato bene. Delle persone veramente stupende, con una disponibilità massima. È un bel mondo nuovo da indagare. Lucia Caruso, grazie. Dobbiamo dare la linea alle strade in diretta. Allora, buon lavoro con Marina Fidanza. A risentirci, Lucia. Sì, grazie. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Abbiamo sentito Marina Fidanza, la studentessa docente, abbiamo sentito Lucia Caruso, la nonna studentessa, il digital divide, l'apprendere gli usi e i costumi, è proprio il caso di dirlo, del sito internet, del Facebook, come l'ha chiamato napoletanamente Lucia Caruso, Massimiliano Tarantino. La verità è che sono proprio queste persone, cioè le persone di una certa età, che hanno un maggior bisogno e anche più tempo forse per accedere ai mondi digitali, quindi un percorso che è solo l'inizio di un'avventura. Hai detto bene, assolutamente l'inizio di un'avventura, e sempre di più ci dobbiamo impegnare perché un maggior numero di persone come Lucia si avvicinano a questi mezzi. Certo che le parole di Lucia dimostrano che l'ulteriore stereotipo che le persone più anziane tendono ad essere conservative, a non aprirsi alle novità, è assolutamente contraddetto dai fatti anche questo. Lucia dice Facebook, dice social network, dice email, dice usa terminologie e si apre ad uno strumento come la nuova tecnologia, che la può avvicinare alle sue amiche, ai suoi amici, ma come si diceva prima anche ai servizi, e quindi alle notizie, ai rapporti con la pubblica amministrazione, che diventerà innegabilmente sempre di più un mondo digitale e da cui gli anziani non possono essere esclusi. Ecco, con noi anche Alfonso Molina, che è professore di strategie delle tecnologie all'Università di Edimburgo e direttore scientifico proprio della Fondazione Mondo Digitale che organizza Telemaus. Professore, buongiorno. Buongiorno. Io credo che uno dei valori più importanti di questa iniziativa sta nel fatto che finalmente è possibile capire, per molte persone di una certa età non è così chiaro, che internet non è uno strumento in quanto tale, cioè non è il computer non è un mezzo di accesso a internet, ma il computer è un mezzo di accesso, che ne so, per ascoltare Radio 24 per esempio, per comunicare con la gente, per comprare delle cose. Cioè è un altro mondo, parallelo quanto si vuole, ma è un altro mondo, non è un computer con cui giocare o con cui navigare a vuoto. Esattamente. Internet, il mondo dell'internet è in realtà un mondo che arricchisce il mondo fisico, diciamo, territoriale, no? Con tanti servizi e cose che si stanno ancora inventando, perché questo sta andando a una velocità e io credo che ancora siamo all'inizio dei benefici che produrrà lo sviluppo della rete, no? Mm-hmm. Lei scusi, Walter, ero un po' sorpreso perché non l'ho sentita prima della trasmissione e mi aspettavo da Edimburgo un accento un po' diverso da quello che è lei. Lei è così, argentino, no? Io sono cileno. Cileno, ecco. E insegna ad Edimburgo e poi fa il presidente en passant a Roma sul mondo digitale. No, anche questi sono i mondi digitali, hanno abbattuto, come si dice, da tanto tempo, ma adesso si può toccare con mano digitale le barriere spazio-temporali, non è più importante, no? Non so neanche dove si trova in questo momento lei, non importa. Cadono le barriere del tempo e dello spazio. Io ho fatto un accordo con la università che ha eliminato, diciamo, il lavoro che mi manteneva là, come il lavoro amministrativo o il lavoro di insegnanza, e mi dedico solamente alla ricercazione, e questo si può fare da qualsiasi parte del mondo. Certo, infatti. Senta, voi avete anche deciso, visto il successo dell'iniziativa, si può dire, perché i numeri sono importanti e anche i risultati probabilmente, di premiare i giovani, che i volontari della conoscenza, come ormai l'abbiamo soprannominato, che si sono distinti. Che cosa intendete dire per distinti? Cioè, sono stati più bravi a spiegare? Esattamente, nel progetto Tremaus noi abbiamo due attività, no? Una attività succede nella scuola, dove i tutor, studenti, fanno de insegnanti agli anziani. Questa è una categoria dove noi possiamo premiare e vogliamo premiare, no? L'altra categoria è di un volontario che porta la conoscenza al centro d'anziano stesso. Perché con Telecom Italia si hanno donato 3 computer a ogni centro d'anziano, e noi stiamo seguendo che succede dopo che gli anziani fanno il corso, i computer entrano al centro d'anziano, e pertanto c'è tutta una nuova attività che si genera, no? Che non esisteva prima nel centro d'anziano. Questo demanderà la presenza di tutor giovani che, come volontari della conoscenza, vadano là a trasmettere la conoscenza, e questo noi lo premiamo con una borsa di 1.500. Ecco, dicevo che premio è una borsa di studio. Esattamente, una borsa di studio 1.500 euro per quelli che lavorano nel centro d'anziani, e per quelli che lavorano nella scuola, il migliore, una borsa di studio di 500 euro. Immaginiamo che ci sia qualcuno che decide chi sono i migliori, quindi c'è una giuria. Sì, sì, noi abbiamo ovviamente la prima giuria sono gli anziani stessi, no? Loro decideranno a chi presenteranno come candidato al premio, e di tutte le scuole finalmente sarà una commissione congiunta con il Ministero della Gioventù, che patrocina l'evento, con la Fondazione Mondo Digitale e con Telecom Italia. Tra l'altro leggo tra le tante cose che ho letto di voi, della vostra storia, anche questo termine che mi piace molto, quello di animatori digitali, laddove la parola animatori associata al termine digitale apre dei mondi effettivamente sconfinati. Completamente sconfinati, però anche sono mondi interni alle persone, no? Perché nella società che stiamo vivendo adesso ci sono grandi sfide, e io credo che sempre di più l'essere umano, come un essere ridotto al consumo o a un solo aspetto, no? Del lavoro, eccetera, è un problema per confrontare le grandi sfide. Pertanto oggi si lavora nell'espandere l'educazione per liberare il potenziale delle persone, no? E questo appunta a ciò che si chiama l'educazione del XXI secolo. In questi processi noi miriamo esattamente a creare processi del XXI secolo, l'educazione del XXI secolo. Bene, professore, grazie. Grazie, mi dispiace non poter essere fra i suoi studenti, perché sono curioso di sentire come fa. Quando parla usa, secondo me, l'italiano, l'inglese e il cileno. Deve essere davvero, come dire, particolarmente intrigante la sua lezione. A presto, professore. A presto, grazie. Massimiliano Tarantino, mi piace ovviamente l'educazione del XXI secolo, perché mai, come in questo caso, c'è e ci sarà una profonda differenza tra un secolo e l'altro da questo punto di vista. Assolutamente, una differenza sostanziale che rischiava di creare delle barriere invalicabili tra quelli che appartengono al secolo precedente e quelli che appartengono a questo, e anche una differenza fondamentale appunto nei linguaggi, nei metodi, negli strumenti con i quali questi linguaggi vengono veicolati. Progetti come Telemaus uniscono, e quindi la tecnologia di Telecom Italia unisce in questi progetti le generazioni, ma soprattutto fa capire quanto sia importante non solo la comunicazione attraverso un telefono, un telefonino, ma la comunicazione attraverso la rete, e quanto la rete veramente possa essere fondamentale per la vita di tutti noi anziani non esclusi. Grazie Massimiliano Tarantino, grazie di aver partecipato e di aver spiegato così bene, a risentirci. Grazie a voi. Grazie a Fondazione Mondo Digitale, che comunque è una bella iniziativa. Se volete riascoltare Marina Fidanza, la studentessa ovviamente emozionata, e la signora Lucia Caruso, andate sul sito di Radio 24, dove potete riascoltare anche il fantastico professore cileno-scozzese-italiano. Ci sentiamo presto, grazie ad Anita Panizza per l'assistenza in redazione e a Fabio Cantadori per quella in regia. A presto.